America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Le ostilità internazionali non sono diminuite in questi giorni. Ieri vi ho proposto il nuovo film di Woody Allen, una chiacchierata con il grande Woody, un po' di musica anche per rompere con l'oppressione delle crisi internazionali. Ebbene, nel frattempo, questa mattina un aereo della linea aerea algerina con 110 passeggeri a bordo e 6 membri dell'equipaggio, 6 spagnoli, tra l'altro, è sparito dai radar lungo la rotta da Burkina Faso ad Algeri e non si sa nulla, ovviamente ancora non si sa niente. Ieri sono stati abbattuti 2 caccia ucraini, sembra dalla contraerea russa. Il difficile lavoro di identificazione delle vittime dell'attentato al volo malese prosegue. L'offensiva israeliana è andata avanti, la Commissione dell'ONU per i diritti umani ha votato per aprire un'inchiesta su possibili crimini di guerra, sia da parte israeliana che palestinese. John Kerry, il segretario di Stato americano, è andato in Israele, in Cisgiordania, cita progressi per un cessate il fuoco a Gaza, ha parlato con Netanyahu, con Abu Mazen a Gerusalemme, c'è anche il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ma dal Qatar, dove risiede Khaled Meshaal, che è il leader politico di Hamas, ha respinto il cessate il fuoco. Tutti dicono cessate il fuoco e negoziate per i vostri diritti dopo, ha detto dal Qatar Meshaal. Questo lo abbiamo respinto in passato e lo respingiamo ora. Secondo me in realtà Meshaal, che non ha parlato con Kerry, respinge con il Qatar anche la mediazione dell'Egitto e del leader antifratellanza islamica El Sisi. Ecco, Kerry non molla, afferma che non si accontenterà del cessate il fuoco, vuole che si crei una piattaforma per tornare a parlare di pace duratura. Possibile? Come abbiamo visto, le divisioni sono profonde dappertutto, anche nel campo palestinese e arabo, e il governo Netanyahu tiene la linea dura. In una sorta di dialogo fra sordi, ciascuno ricorda all'altro i torti che hanno impedito la pace. The number and the, of their forces is bigger than ours, but still I hope and that we can make it, but much depends upon where the battle is. Ricordate la guerra dei 6 giorni? Sono passati 47 anni da quella guerra. Quella che avete appena sentito è la voce di Moshe Dayan, il generale, l'eroe per Israele, il generale che debellò le armate arabe che circondavano il paese e in 6 giorni diede la vittoria al suo paese, avanzando verso la Siria, verso la Giordania, verso l'Egitto. Ecco, una vittoria netta che non portò a nulla, come non portò a nulla la vittoria netta del 48. E, insomma, le guerre chiaramente non bastano o non servono, però c'è da chiedersi, è possibile dopo quest'ultima guerra immaginare anche la pace oltre che la tregua come vorrebbe Kerry? Insomma, l'ho chiesto a una memoria storica vivente nella regione, a Ruth Dayan, che è la vedova di Moshe Dayan, come vi ho detto, uno dei protagonisti storici del Medio Oriente. Good morning, Mrs. Dayan. Good morning. Comincio col chiederle quante guerre ha vissuto. Di guerre ne ho viste molte, non solo quella del 67, quando mio marito guidava le forze armate israeliane, ma anche quella del 48, quando l'ONU approvò la risoluzione che costituiva lo Stato di Israele ed il mondo arabo la rifiutò. Quella del 56, la guerra del Kippur del 1973, la guerra in Libano del 1982, le 2 intifada nell'87 e nel 2000, e di nuovo in Libano nel 2006, le guerre a Gaza, prima nel 2008, poi nel 2012, eravamo sempre in guerra. Ecco, eravamo sempre in guerra, mi dice Ruth, che ho incontrato a New York ieri, dove è di passaggio per qualche giorno. Anche lei è rimasta bloccata per il bando dei voli internazionali in Israele e vi dicevo che Ruth Dayan ha una memoria storica. Perché? Ma perché quando è nata nel 1917, pensate, Israele o Palestina non esistevano. Esisteva solo una provincia dell'impero ottomano. Abbiamo parlato della prima guerra mondiale in alcune puntate precedenti, un secolo fa, infatti Ruth ha quasi un secolo, e in questo impero ottomano arabi ed ebrei convivevano in pace, e dunque Ruth è la storia vivente di un paese, perché ha delle ramificazioni incredibili. Pensate, sua sorella Reuma era sposata con Ezer Weizmann, che fu il 7° presidente di Israele. Lo zio di Ezer, Chaim, era stato il 1° presidente dello Stato ebraico. Una famiglia dunque con radici nella storia della regione fin dalla fine dell'Ottocento, una donna di 97 anni, lucidissima, piena di ricordi. E proprio nei ricordi sono andato un po' a pescare, chiedendole della sua infanzia e del suo rapporto con gli arabi. Ho molti amici nel mondo arabo, amici della mia infanzia, perché all'inizio vivevamo a Jaffa e Jaffa era una grande città araba. Io giocavo con gli altri bambini arabi, a scuola ci insegnavano la lingua araba, poi tutto è cambiato. Oggi non si parla più arabo in Israele, molti nel nostro governo non parlano arabo, la comunicazione è difficile. Abbiamo avuto nuovi flussi di immigrazione, tutto molto giusto, ma il volto del nostro paese è cambiato rispetto a quasi 70 anni fa, quando Israele nasceva come uno Stato orientato al socialismo e alla vita comune nei kibbutz. Quando nascevano le cooperative, quando gli ideali di equità, del bene comune superavano le ambizioni dei miliardari. E oggi anche in Israele ci sono molti miliardari. Come dire che l'Israele di oggi è più materialista che idealista? È un melting pot perché ha accolto emigrati da tutto il mondo, dalla Russia all'Etiopia. Questa radice multiculturale dovrebbe promettere bene, però alla fine nulla evolve. E dunque chiedo a Ruth: come vede la guerra di oggi? È diversa dalle altre guerre? Every war is different because the situation. Ogni guerra è diversa perché le situazioni sono diverse. Eravamo appena 600.000 nel 1948 e perdemmo 6.000 giovani durante quella guerra, tra cui mio cognato, mio cugino e molti altri. Israele era un piccolo Stato che contro ogni probabilità cercava di difendersi da tutti i suoi vicini e ce l'ha fatta. Non lo dico per giustificare quello che è successo, ma gli arabi hanno perso e questo è un fatto storico. Oggi siamo 8 milioni di persone. Credo che sia importante chiudere i tunnel e neutralizzare l'arsenale di Hamas. Ci bombardano e non è piacevole vivere sempre sotto la minaccia di un attacco. Come reagirebbe l'Italia se fosse sotto un attacco continuo sul suo territorio da parte di un paese confinante che gli lancia missili contro? Hamas dice che ci butterà nel mare, ma loro stessi sanno che non sarà possibile. Ma la guerra di oggi è diversa. Non si invade per occupare, si chiudono tunnel, ma i problemi restano gli stessi. Chiedo a Ruth se il dialogo di medio termine, come vorrebbe Kerry, è un dialogo possibile. Il dialogo oggi è difficile, specialmente con la guerra in corso. Sono pessimista perché i leader di entrambe le parti sono molto diversi da quelli dei miei tempi. La situazione è cambiata, io non credo nel ritorno al passato. Eppure mi fa rabbia perché abbiamo sofferto, abbiamo avuto tutte queste guerre e davvero non capisco perché le rispettive leadership non si siedano a parlare. Il problema, lo dico apertamente, riguarda anche la nostra attuale leadership politica, a partire da Netanyahu. Non c'è nessuna apertura nei confronti degli arabi. Una volta era diverso, c'erano più rapporti tra i due popoli. Oggi no. Torno all'aspetto simbolico della lingua. Pochi dei nostri leader, pochi israeliani parlano arabo. Prima lo parlavamo tutti. Ecco, scopro che Ruth ha un dialogo con i palestinesi, chissà, forse proprio perché parla arabo, ma le chiedo di raccontarmi di questo dialogo e di questa sua storia con le donne palestinesi soprattutto. Passo molto tempo in Cisgiordania, ho un rapporto forte con molte donne palestinesi e so che loro lo hanno con me. So che mi vogliono bene e pensano che le possa aiutare. Faccio quello che posso, per esempio aiuto delle organizzazioni di donne palestinesi. Cerco di agevolare i passaggi, ma il problema è che oggi le città israeliane sono chiuse per i palestinesi. Sa cosa fece mio marito come primo atto dopo la guerra dei sei giorni? Aprì le porte di Jaffa. Vennero a centinaia di migliaia e non ci furono disordini, anzi molti di loro si preoccupavano per noi. Ricordo una famiglia che portava dello zucchero perché pensavano che ne avessimo bisogno. Il dialogo dunque c'era, c'è stato, a tratti lo abbiamo visto anche negli ultimi anni, si è interrotto, chissà che non si riprenda. Chiedo dunque a Ruth Dayan, per chiudere, se c'è comunque speranza per il futuro. Sì, c'è speranza, anche se la situazione resta molto difficile proprio per la mancanza di dialogo. Perché non parlare con Abu Mazen? Molti in Israele dicono che lui non è un partner con cui è possibile arrivare alla pace, ma finché è al potere è con lui che bisogna discutere e secondo me è una persona per bene. Conosco coloro che lo circondano e ne ho una buona opinione. Con la guerra in corso tutto è più difficile, ma la speranza c'è perché la natura umana non vuole la guerra. Le famiglie arabe non vogliono la guerra, non vogliono che i loro figli combattano e muoiano in guerra. Come non lo vogliamo noi, e questo da solo può essere un seme di speranza perché si riprenda a parlare gli uni con gli altri, guardando in avanti e non al passato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato d'estate, vi sto proponendo in quest'ultimo scorcio di America 24 prima della pausa estiva canzoni dell'estate americana. Oggi la dedico ai Drifters, Under the Boardwalk. On a blanket with my baby. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.